Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Oggi nel mio treno farò un viaggio speciale. Un viaggio in cui non è detto che mi debbano seguire tutti. Perché un viaggio che va all'interno di una dimensione dell'esistenza che mi tocca personalmente. Il 2 aprile, come tutti sanno, è la giornata internazionale dedicata alla consapevolezza sull'autismo. Una bella festa, è la festa del Santo Comandato, è la giornata dei palloncini azzurri, è la giornata in cui si illuminano di azzurro i monumenti. Ma cosa c'è dietro tutto questo? Dietro tutto questo ci sono delle famiglie. In Italia sono 600.000, statisticamente si calcola, non si sa nemmeno se poi sono tante o più o meno, non esiste nemmeno la conta degli autistici in Italia. E chi sono gli autistici? Ma gli autistici sono dei figli che ti nascono e ti accorgi dopo un po' che hanno una maniera di vedere il mondo che è un po' diversa da quella della maggior parte delle persone, e questo crea dei problemi. Può essere un po' diversa, leggermente diversa o molto diversa, sì, perché gli autistici sono una grande famiglia, ma sono tutti fratelli differenti fra di loro. È come se, pur appartenendo alla stessa famiglia, hanno padri diversi. La grande mamma ha l'autismo e i padri possono essere diversi, i figli possono essere diversi. C'è solo una realtà che li accomuna: il fatto che poi, quando crescono, quando hanno 18 anni, guariscono. Guariscono per lo Stato, per la medicina ufficiale italiana, perché non sono più autistici, non vengono più chiamati autistici. Cosa diventano? Ma non si sa. Entrano in un grande calderone di malati psichiatrici, psicotici, insomma, diventano carne d'ammasso destinati poi ad andare a finire nei posti specializzati per il mantenimento in vita di queste persone. Voi direte: sei catastrofista, cosa stai dicendo su questo treno? No, proprio così. Io l'ho raccontato in un film che si potrà anche vedere in televisione, si potrà vedere in internet, al cinema, ovunque penso e spero che qualcuno vorrà far vedere la storia di queste famiglie che hanno in carico dei ragazzi belli, vitali, che vorrebbero vivere la vita, che però in realtà hanno molte poche possibilità di vivere. Perché ve lo dico proprio oggi? Perché ho preso un treno particolare. Un treno che è popolato da alcune persone che hanno questo problema. Ho scelto lo scompartimento delle mamme, perché le mamme hanno il carico più grosso, sono quelle che per anni si sono prese l'onere di avere la colpa dell'autismo dei figli. Una scienza che nulla di scientifico aveva diceva: ma è colpa delle mamme, non sono state abbastanza mamme, non gli hanno dato la tetta, non l'hanno guardato negli occhi mentre l'allattavano, hanno pensato a lavorare, hanno pensato a fare le professioni, sono state meno donne. Ancora qualcuno lo crede questo, mette le mamme sul lettino dello psicanalista e invece di occuparsi dei figli si occupa delle madri. È molto più facile, le madri hanno un potere d'acquisto maggiore, possono pagare i figli, in realtà i figli non li vuole nessuno. La prima mamma è Graziella, so che si chiama Graziella, ma detto che si chiama Graziella. Graziella ha un figlio dondolante, un eterno dondolio, ha una stereotipia per cui dondola come un metronomo. Lei li vuole molto bene, se lo porta dietro, per lei è un tesoro, il suo figlio che dondola. E se non ci fosse Graziella, questo ragazzo che dondola dove andrebbe a finire? Non si sa. Lei è ancora viva, lei è vitale, lei è accompagnatrice di suo figlio, lo porta in automobile, lo porta a spasso, lo porta in bicicletta e lo porta in treno. La giornata tipo è una giornata che praticamente è in virtù, diciamo, tutta gira intorno a Simone, ecco, mi spiego meglio. La mattina io mi alzo molto presto perché comunque devo fare tutte quelle cose che si fanno prima che Simone si svegli. Poi una volta che Simone si sveglia, prima di andare a scuola, lo aiuto a lavarsi, a fare la doccia, lo aiuto a vestirsi, perché lui da questo punto di vista non è completamente autonomo. Quanti anni ha Simone? Simone adesso ne fa 21. Lui, per quanto riguarda l'autonomia, ha un'autonomia, un controllo sfinterico, va in bagno da solo e tutto quanto. Però non è che Simone gli ci lava dei denti, prende lo spazzolino e si lava i denti. Lo devi aiutare. Gli devi stare tanto dietro. La barba gliela devi fare, gliela faccio pure io una volta a settimana. Quindi gira tutto intorno a Simone. Poi la giornata si interrompe perché lui va a scuola e io vado al lavoro, che per me è uno svago, devo dire la verità, perché è l'unico momento della giornata dove io mi distacco da Simone e quindi, completamente immersa in altri problemi, mi dimentico un po' di quello che mi prende la testa tutto il tempo. E sono ben felice di occuparmi di Simone. Mi seccano tante cose che però vanno a scozzare, perché noi sappiamo, noi che siamo dentro il mondo dell'autismo, che loro hanno quei comportamenti che la società non accetta. Però noi tutti i giorni ci scontriamo con una società che non è capace di integrare, di includere queste persone, quindi ci rende la vita impossibile, anche nelle cose più semplici. Il treno va. Ricordiamo che il film Tommy e gli altri di Gianluca Nicoletti e Massimiliano Sbarolla, dedicato a storie italiane di ragazzi autistici, va in onda domenica 2 aprile su Sky Arte alle 19.35 e su Sky Cinema Cult alle 23.15 e in chiaro sul canale TV 8 alle 23. Simone ha la consapevolezza, come dice il papà di Giacomo, della sua, diciamo, non della sua patologia, ma comunque della sua diversità. Che diverso. Si rende conto, no? Si rende conto. Io quando lo vado a prendere delle volte, lui in un primo approccio è felicissimo di vedermi, ma nel non potermi comunicare quello che gli succede, mi fa la boccuccia, sai quello che fa il lattantone quando butta giù le labbra, no? Che vuole piangere, che non ci riesce, perché ha una difficoltà enorme nel pianto. Io non ho quasi mai visto Simone piangere con le lacrime. E ti fa questa mimica facciale, è come che mi sta a comunicare un grosso disagio, tant'è vero che io a lui mancherebbero 2 anni. Tu oggi dicevi, ho chiesto la bocciatura, io spero invece di farlo uscire al più presto possibile. Certo che abbiamo un problema, Gianluca, il problema è dei centri diurni, perché se tu entri nei centri diurni di Roma, dove sono tutti miste, no? le varie diciamo patologie, ma dove il rapporto è 1 a 7, 1 a 10, quando racconti di quello che potrebbe fare tuo figlio una volta l'anno, strappati, che ne so, il vestito da dosso, e questo diventa un elemento di grande rischio, quindi ti rispondono, sì signora, le faremo sapere, c'è una lista d'attesa. Cioè non te lo prendono? Non ti chiamano più, quindi tu o vai in questi centri che sono a pagamento, e tutti i pagamenti, tu non potrai mai dimostrare niente, Gianlu, perché sono tutti, lo sai come vengono fatti? Con donazione volontaria. Quindi fai una donazione volontaria al centro? Donazione volontaria, e poi ti entrate. Quindi io mi trovo col problema che so che Simone ha finito il ciclo scolastico, ma non so dove poterlo mandare. E io non sono di quelle persone che hanno delle persone a casa che dice vabbè, però la mattina sta a casa con me e lo guarda, che ne so, il badante, la persona che mi fa le pulizie a casa, e poi il pomeriggio gli faccio fare altre attività di tipo, che ne so, che è ludico, no? O sportivo. No, perché io comunque la mattina devo andare a lavorare, devo timbrare un cartellino e c'ho poco da fare la viziata in questo senso. Simone deve avere un'occupazione che deve essere comunque adeguata per lui. Che lo secondo te cosa bene. Potrebbe fare tuo figlio, al minimo, cosa potrebbe fare per rendersi in qualche maniera utile di attività? Simone potrebbe fare tante cose, che ne so, pure andare a pulire i giardinetti pubblici, nel senso ti porta il sacco e l'altro li mettono, capito? Sì, lavoro in tipo manuale potrebbe farli. Certo, certo, è un ragazzo che comunque se tu gli dai delle indicazioni, mi porti queste due bottiglie da lì a lì, te le porta, mi tieni il sacco, te lo fa, mi aiuti a stendere i panni, ti aiuti a fare queste. Certo, non ha un'autonomia in grado di fare un pensiero autonomo di devo prendere i panni e devo portare a stendere. No, quello non ce l'ha Simone. Simone lo sai, è un autistico grave con comportamenti di problema serio, quindi è chiaro che quello non ce l'ha. Però può essere inserito in un centro dove ci sono varie attività di tipo di giardinaggio, di tipo di coltivazione, solo che ne so, devono annaffiare. Secondo me lo può fare, certo ci deve avere sempre un tutor, una persona che, e comunque deve avere la giornata organizzata, non può avere una giornata dove da che entra a che esce si gira intorno a se stesso e aumenta le sue stereotipie. Io perché poi Marco col lavoro che fa non c'è quasi mai. Marco, poverino, che sarebbe il padre. Marco sì, il papà, è più assente di me, capito? Perché vabbè, lui sta in un nucleo operativo, adesso poi sono postati pure nei carabinieri, il corpo forestale, quindi è molto più assente, ma fisicamente, capito? Non se ne occupa. Però questo, lavorare bisogna, perché sennò dopo con che li paghi gli operatori? Quello fa. No, sì, una parte ce l'abbiamo dal comune, per carità, ma io poi di più non posso mettere, perché alla fine quello è, capito, non è che le entrate sono tutte quelle, sono contate, io sono pubblico dipendente, quindi, capito, ma quello che manca non è, a me non è né il lavoro e né l'assistenza. Io ho chiesto tutto quello che potevo chiedere a Gianluca. Lui ha bisogno di altro. Se io lo porto alla festa, ecco, dei Tommy la sera, lui comunque sta tranquillo perché io faccio con lui, e gli piace, capito? Io lo riesco a trattenere in qualche modo. Se io lo porto in una paninoteca, se lo porto in un ristorante, se lo porto a fare una passeggiata, a lui piace, basta che fa in giro, a lui gli piace perché è un autistico, io dico un po' atipico, a lui piace stare immerso nella società. Non sicura, è incurante di quelle che sono le regole nostre, perché non gliene frega niente, quindi se lui vede una bottiglia d'acqua che se volte c'ha sete si attacca, perché non chiede il permesso a nessuno, e niente. Però a lui gli piace stare in giro, a lui non gli piace stare da solo. E quindi, capito? Di conseguenza devi andare in giro anche te. Certo, io mi mantengo giovane, devo andare in giro anche io. Quante ore al giorno lo porti in giro? In macchina, a piedi? Come lo porti? Io vado in macchina e se devo andare, che ne so, se devo fare delle cose spicciole della giornata, allora devo andare a fare la spesa, devo andare dal medico e prendo la macchina. Però poi ci sono dei momenti che dedico a Simone, allora mi vado a fare la passeggiata. Io Gianluca, delle volte, mi credo che a Roma ce l'ho solo io il figlio autistico. Perché dove vado, a me mi conoscono dappertutto, mi conoscono tanti posti, conoscono, perché io con Simone vado tranquillamente dappertutto, nonostante lui abbia delle sue, a volte no, sai, delle crisi, ma a me me ne frega niente, quelle mi fanno star male un minuto, ma dopo vado avanti, perché non mi piace che io, genitore, che l'ho fatto, lo debba escludere da quella che è la vita. Ma che male ha fatto lui? Niente. Ma se lui c'ha una crisi mentre siete in macchina, ti è successo degli incidenti, le cose? Come no? Ma tu pensa, una volta, questo sarà successo 2 mesi fa, e ha avuto una crisi perché ci abbiamo messo tanto, io gli avevo detto andiamo a prendere il gelato, e noi andiamo alla Romana, e un giorno vi voglio portare un gruppo di ragazzi, li voglio portare alla Romana, perché sono delle persone carinissime, perlomeno con me e Simone passa avanti, hanno delle file chilometriche, è una gelateria di Roma sparsa in vari posti di Roma. Io vado a via 20 settembre. Arrivati lì, lui ha avuto, sempre al semaforo, un momento di crisi, perché è arrabbiato perché io non andavo avanti, quindi vedeva sta gelateria ma io ero fermata al semaforo. Allora lui che ha fatto, si è arrabbiato, c'era un posto di blocco, il poliziotto si è avvicinato. Io sono scesa dalla macchina perché dico, mo famo la seconda, perché era da poco successo l'episodio del 6 gennaio. Quindi ho aperto lo sportello e sono scesa, facevo stai calmo, e il poliziotto del posto di blocco mi ha guardato e fa: signora, ci sono problemi, cioè ci sono problemi, ma stava rivoltando, io ho la smart. Dico: sì, sta per avere una crisi. Dico: io non rientro in macchina. Ah, va bene, non si preoccupi. Cioè, non è che mi hanno detto l'aiutiamo, non l'aiutiamo. Io sono rimasta come la cogliona in mezzo alla strada e il poliziotto che continuava a fare il posto di blocco. Dico: ma ti rendi conto? Cioè, mi vedono io in difficoltà perché sono scappata, sono scesa dalla macchina, e quello ha problemi. Ma non vedi che c'ha? C'è un gigante che c'ha una crisi. E poi è sfumata, quindi non è stata una crisi violenta, si è calmato, io sono rientrata in macchina e gli sono andata a prendere il gelato, capito? Ma di questi episodi ce ne so tanti. Ma quanto puoi farcela ancora tirare avanti? Io ce la faccio come tutti, Gianluca. Non lo sai che a me non mi sembra di sta a fare niente di speciale. So una mamma che vuole bene al figlio, che è il motivo, è la ragione di vita, è quel dopo, quando io non ci sono, perché è naturale che io venga a mancare me prima di lui, no? Ecco, questo è l'aspetto che non mi fa dormire tranquilla e che mi ha portato in un'insonnia, diciamo, prima della menopausa, no? Proprio perché è l'unica ansia grossa, perché io adesso faccio una vita non diversa dagli altri, ma vado a fare le mani, ho tempo da andare a fare la passeggiata, mi compro le mie cose, faccio i miei viaggi quando mi va a partire, non mi privo di niente, degli sguardi delle persone me ne frego, di atteggiamenti delle volte mi incacchio e delle volte lascio correre, dipende da come mi trovano, capito? E vado e faccio una vita normale, non la vivo da questo punto di vista, la mia quotidianità non la vivo con drammaticità. Però ti rendi conto, vivo male la società, come si relaziona, vivo male quando devo andare a cercare che posso far fare a Simone, vivo male quando cerco il medico che non mi dà retta. Ecco, queste sono le situazioni che io vivo male. Vivo male adesso che so che Simone ha finito un ciclo e non c'è nessun posto dove per me potrebbe andare Simone. Ma magari me lo prende pure qualche altro posto, ma io non sono contenta perché è un altro parcheggio, non si chiama più scuola, si chiamerà in un altro modo. Ma non è quello che vorrei io per Simone, hai capito? Questo è già lui. Il treno va. Si ricorda ai signori viaggiatori che non è consentito l'uso promiscuo dei servizi igienici durante il transito in galleria. Gilda ha uno scompartimento soltanto per sé, perché il figlio si tranquillizza e riesce a star sereno soltanto tagliuzzando pezzi di carta. Strappa pezzi di carta, compone coriandoli, compone striscioline di carta. Carta di consistenza diversa che fa un rumore diverso. Nel rumore della carta e nella frattura del foglio trova la compensazione alla sua ansia perenne, che lo fa essere autistico rispetto a un normo dotato dal punto di vista della capacità cerebrale. Jose strappa la carta e Gilda lo guarda. Questo è il rumore della carta che strappa, perché io gli ho dato dei fogli del mio archivio. E lui quando strappa è contento, è l'unica cosa che fa in autonomia, diciamo. Lo rilassa, nel senso che lo rilassa a strappare la carta. Lo rilassa, lo fa stare bene e quindi strappa, cartoccia e ogni giorno mi fa montagne di carta. E ecco. Che ci fai poi con le montagne di carta? Con queste montagne di carta un pochino con il suo terapista le utilizziamo nel laboratorio, quindi ci fa attacca oggetti, le dipinge, fa cartapesta e un po' le buttiamo perché è una quantità incredibile di carta che strappa, quindi non si può utilizzare tutta. Quando ha cominciato questa cosa che strappava la carta per rilassarsi? Lui ha incominciato che con la carta igienica, oppure in cucina prendeva lo scottex, incominciava a strappare, poi faceva anche delle palline piccole e se le mangiava. Adesso quando è particolarmente nervoso continua a mangiare pezzetti di carta, però insomma quando riesce a stare tranquillo la strappa e si diverte, cioè, la pesa per sentire lo spessore della carta e poi la strappa. A volte fa dei pezzettini piccoli piccoli, a volte pezzi più grandi, a volte a cartaccia, a volte a strappa soltanto. Beh, vedo che ormai è diventata proprio un'attività complessa. Diciamo che l'unica cosa che lui fa con piacere è una stereotipia. Del resto meglio strappare fogli di carta vecchie che distruggere rotoli di carta igienica, anche perché quelli non gli davano grande soddisfazione, perché non fanno il rumore della carta normale, insomma, no? Invece proprio questo rumore gli piace tanto, lo rilassa. Senti, da quanto tempo ti occupi in maniera intensiva di Jose? Da quando mio marito si è ammalato, nel senso che lui a 57 anni era andato in pensione per occuparsi di Jose a tempo pieno e poi purtroppo si è ammalato con una malattia anche brutta come l'Alzheimer e quindi non me ne sono dovuta occupare io a tempo pieno, anche perché non ho nessuno in famiglia che mi può aiutare, quindi sono da sola. E tuo marito non c'è più adesso? Mio marito è morto nel 2015, dopo, insomma, aveva 57 anni quando ha iniziato ad avere i primi sintomi, è morto a 69 anni, quindi insomma dopo alcuni anni di malattia. Jose come l'ha presa che è morto il padre? Se ne è reso conto? È stato un... Sì, se ne è reso conto pienamente, non solo perché ha vissuto tutte le tappe della malattia, anche quelle, insomma, le ultime più drammatiche in ospedale, ma poi l'ha visto, gli ho fatto vivere tutto il lutto, insomma, anche lo stallo, gli ho fatto toccare, si è reso conto del cuore che non batteva più, insomma, ho voluto che prendesse coscienza di questo evento drammatico, anche perché non volevo che pensasse di essere abbandonato, cioè insomma era un evento inevitabile, ecco. Non... Secondo te lui ha capito la differenza fra la vita e la morte? Questo è un concetto molto difficile. Sì, è un concetto astratto e quindi per questi ragazzi può sembrare difficile la comprensione, ma lui l'ha capito perfettamente, anche perché anche ora a distanza di tempo, quando ogni tanto gli dico ma papà dove è andato, e lui mi risponde sempre sta in cielo, quindi lo ha capito perfettamente. Senti, dimmi la giornata com'è, a parte strappare la carta, come l'articolo è la giornata con tuo figlio? Allora, ti dicevo, la mattina ancora va a scuola, quindi insomma, bene o male, lo spazio della mattina è occupato dalla scuola. E poi il pomeriggio fa tante attività, deve fare per forza delle attività, perché lui da solo in autonomia non fa nulla, quindi lo accompagno, ogni giorno lo accompagno a terapia, quindi a tutta la settimana impegnata, due giorni va in un centro che è il Tangram, poi altri due giorni va al Guscio di Noce dove fa un laboratorio il martedì di cartapesta e il venerdì fanno un laboratorio teatrale. Poi c'è il laboratorio, quello con gli altri ragazzi autistici, il sabato va a vela, il venerdì va in piscina, insomma fa una serie di attività dove io lo devo sempre accompagnare. Tu fai, fai la tassista fissa di tuo figlio? Io sono continuamente al suo servizio, praticamente da quando mio marito si è ammalato io ho dovuto piano piano rallentare il lavoro, io ero un avvocato, ho rallentato e poi a un certo punto ho dovuto sospendere l'attività, perché capisci bene che tutti i pomeriggi sono impegnati e non posso svolgere il mio lavoro soltanto la mattina. ti pone mai il problema e tu magari, non so, puoi stare un giorno, avere l'influenza, averci da fare, non esserci. Ah, guarda, tempo fa che ho avuto problemi con la colecisti e mi hanno detto che mi dovevo operare, mi è cascato il mondo addosso, nel senso che ho detto come faccio io a affrontare un intervento e a stare anche pochi giorni in un ospedale quando in una situazione come questa, cioè io intorno a me purtroppo ho perso mia madre, mio padre ormai è anziano e pure lui ha una malattia terminale, non ho nessuno in famiglia che mi può aiutare, ho soltanto mia figlia che ha 23 anni, però insomma è una ragazza che segue l'università, è occupata, quindi in situazioni estreme mi può tamponare, ma non posso affidargli io se per una giornata intera. Anche, quindi, anche lei avrà la sua vita, giustamente. Lei ha la sua vita e devo dire finora sono riuscita a tenerla insomma abbastanza libera da certi impegni. Poi certo, se capita la situazione estrema, lei mi sostituisce, però insomma mi può sostituire per qualche ora, non di più. Ma non ti poni il problema che quando non ci sarai tu a fare la tassista, qualcun altro dovrà pensarci? Lo so, ma infatti sto cercando di valutare insomma anche nel breve periodo, perché non mi sembra giusto ricorrere a delle soluzioni estreme quando sarò troppo anziana, quindi sto cercando di valutare delle ipotesi anche a breve, anche perché tra un anno Iose finirà la scuola, quindi si creerà uno spazio enorme, cioè è tutta la giornata, non è solo mezza giornata, quindi è inevitabile, anche perché io pure incomincio a avere i miei problemi, insomma, ecco, cioè è una vita logorante. Ma cosa offre il mercato? Una madre che dice non ce la faccio più, che fa? Il mercato, tante parole, adesso poi dell'autismo ne parlano tutti, però a livello pratico, concreto, mi sembra che ci sia molto poco, insomma, ecco. A parte i carrozzoni, i centri diurni, dove finiscono un po' tutte le varie patologie, però, e poi insomma anche quelli sono liste d'attesa, difficoltà a entrare, insomma, al di là della valutazione poi e dell'efficienza di questi centri diurni non c'è niente. E quindi? E quindi dobbiamo inventarci qualcosa noi, come hai scritto tu nel tuo libro, alla fine qualcosa ci inventeremo. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Un'altra mamma, Bea. Bea ha un figlio molto grande, un bel ragazzone, con un ciuffo biondo, con lo sguardo un po' assorto. Gli autistici hanno sempre questo sguardo misterioso che sembra che guardi da un'altra parte, ti guarda, ti attraversa, non sa nemmeno se ti vede. Anzi, se dico questo molti si arrabbiano, perché gli autistici della famiglia di quelli più attenti hanno sguardi vivacissimi, sono ragazzi molto intelligenti. Voi direte, beh, allora qual è il loro problema? Il loro problema è che non capiscono e non sanno definire quali sono i termini di una relazione. Magari incontrano una persona e ci stanno a parlare 2 ore di una loro passione e non capiscono l'atteggiamento della persona verso di loro. Beh, anche Bea mi racconta come passa le sue giornate con suo figlio. Quanti anni ha tuo figlio? 26, lui fino adesso è andato a scuola, perché tramite vari escamotage ho fatto prima un percorso, poi è stato bocciato, quindi ha ricominciato un altro percorso di liceo, quindi è stato fino a 26 anni a scuola, ma adesso credo che con le nuove regole non sia più possibile. Lui è entrato per sbaglio in questa regola, in questa cosa. Sarà dura quando non potrà più andare a scuola? Sarà molto dura, anche se un pochino abbiamo cominciato, nel senso che lui un paio di volte a settimana va a fare sport con il progetto Filippi, quindi va a nuotare, quindi un pochino già abbiamo cominciato ad allentare già da tempo, questo sempre di andare regolarmente a scuola. Poi adesso stiamo sentendo per i vari corsi post diploma che stanno organizzando e varie associazioni quello che prospettano per la mattina. Comunque certo la preoccupazione per organizzarli la mattina sarà dura, perché per quanto possa essere organizzata è difficile ridare tutte le ore, tutta l'organizzazione che c'è dietro la scuola, nel bene e nel male, perché c'è un confronto con gli altri ragazzi e c'è una continuità anche di rapporto, di relazione, di luogo. Per lui immagino sia una festa comunque andare a scuola la mattina. Per lui è contentissimo di andare a scuola. Lui la mattina alle 6:30, 7:15, quando viene il pulmino, lui scende tutto festante, è già pronto, preparato, si mette le cose, si prepara la cartella ed è già pronto. Andiamo, scendiamo al portone alle 7, perché per quando passa il pulmino lui è già sempre pronto, perché il pulmino fa ritardo. È felicissimo di andare a scuola. Il pomeriggio come lo organizzi invece? Il pomeriggio noi abbiamo l'assistenza in diretta, quindi il suo assistente lo porta spesso in palestra. Loro hanno fatto varie esperienze lo scorso anno in una palestra, quest'anno stanno andando in un'altra, hanno addirittura provato il pugilato e si trova molto bene in questa palestra. È una palestra di persone, lo fa con i normodotati, è normale, aiutato da lui chiaramente, fa gli esercizi, fa tutto quello che deve fare. Beh, anche giusto che sia così, sennò... Sì, beh, lui ha visto che lo sport è abbastanza portato, è uno piace, abbiamo trovato la via dello sport per cercare di integrarlo il più possibile. Certo, il vero problema è che alla fine ti tocca ancora come madre organizzare minuto per minuto la giornata di un essere umano adulto. Assolutamente sì, perché ovviamente tutta l'organizzazione sua dalla mattina alla sera è sulle mie spalle. Ma ci hai pensato quando tu sarai un po' più stanca magari? Ci penso sì anche perché è un pensiero che mi assilla, quello di quello che succederà quando io non ce la farò più a fare tutte queste cose, perché molte non le potrà poi più fare. Tu come ti dedichi fisicamente a tuo figlio, per far capire un po' a chi non ha il problema, che non se ne rende conto? Fammi un esempio nel pomeriggio in cui, oppure il fine settimana, che sono i giorni più terribili in cui in effetti non c'è nessuno e ci sei solo te. Fine settimana un po' ce l'ho, soprattutto la domenica mi aiuta anche mio marito, perché c'è lui la domenica. Il sabato lui lavora, quindi la mattina qualche volta se lo porta prima di andare al lavoro a prendere un cornetto, a fare un giro, insomma una passeggiata, viene a fare la spesa con me. Se capita che c'è qualche attività organizzata, che capita che vanno fuori ad esempio con qualche progetto eccetera, va fuori con questo progetto, sennò alcune volte, anzi spesse volte, sta con noi e poi il pomeriggio possiamo andare a un cinema anche con le mie amiche, tante volte io lo porto insieme a noi, insomma insieme ad un'amica, a vedere un film, oppure possiamo andare a fare degli acquisti, andare a fare una passeggiata e qualche volta andiamo in campagna, perché noi abbiamo questa casa in campagna, mi accompagna in campagna a vedere le cose che ci sono da fare in campagna, a controllare le piante, le cose, a pagare chi viene a sistemare le cose, e la domenica di solito va a nuotare con il padre, e poi se siamo con amici andiamo a pranzo fuori, e poi il pomeriggio abbiamo organizzato un laboratorio d'arte per farli stare insieme, questi ragazzi stanno un po' insieme il pomeriggio della domenica. Ecco, poi vedi, ritorna sempre lo stesso discorso, però sempre lo portiamo noi, cioè praticamente tu hai idea di quale sia la vita di un uomo di 26 anni che non sia autistico? Io a 26 anni stavo, sì, ce l'ho l'idea, nel senso che mi viene in mente che io a 26 anni ero sposata e vivevo a New York con mio marito. E tuo figlio deve aspettare. Avrebbe potuto fare qualsiasi cosa, cioè nel senso stava dall'altra parte dell'oceano e non sapeva nemmeno che cosa stessi facendo. Tu invece, tuo figlio, sai ogni minuto quello che fa. Io ogni minuto so che anche a casa, anche se siamo a casa sotto lo stesso tetto, lui è abbastanza tranquillo, ma io ogni minuto, ma se non lo sento per un quarto d'ora, 20 minuti, vado di là, che cosa stai facendo? Magari lui si sta guardando il tablet, sta disegnando in camera sua, sta tranquillissimo, ma io ogni tanto controllo quello che sta facendo. Quindi una sentinella continua? Una sentinella continua, sì. Ma puoi uscire te di casa lasciandolo solo a casa? Io evito. Ma questo per far capire, molte volte le persone non si rendono conto. Io evito, non lo faccio, non lo lascio solo a casa, perché lui apre la porta in maniera scriteriata, nel senso che chiunque suona lui aprirebbe la porta, non tanto per quello che può fare, quanto perché non ha questa capacità, diciamo, sociale, non sa usare il telefono, quindi se lui dovesse avere bisogno d'aiuto non è in grado di chiedere aiuto. Ma secondo te una persona estranea, anche se preparata e tutto, come potrebbe prendere in carico un'avventura del genere, occuparsi un essere umano adulto ogni minuto della sua vita, ogni giorno della tua vita, in ogni attività, da quelle minime, perché dovrai anche organizzargli il mangiare, il dormire, il bere, il curarsi, per quanto sei autonomo ci devi essere sempre te. Sì, ci deve essere una persona che se ne occupa nella quasi totalità del tempo, nel senso lui è autonomo per vestire, per lavarsi, per qualche attività così, insomma, non deve essere continuamente sorvegliato, ma ha bisogno di una persona che sia con lui. Che idea ti sei fatta fra 10 anni, fai conto? Io spero di riuscire ad organizzare qualche forma di convivenza insieme ad altri ragazzi, con degli operatori che li possono controllare, che li possono gestire, e noi, diciamo, svolgiamo solo una forma di controllo dall'esterno del lavoro di questi operatori. Perché un po' alla volta questi ragazzi poi dobbiamo pensare, appunto, a qualche forma di vita lontano da noi, anche se è molto doloroso e molto difficile. Ti ringrazio, Beatrice. Di niente. Grazie, ciao, ciao, a presto, ciao.